prostor da stavar po sagari. Non è andato a fare. Uno ha buttato in altro. Altro che è andato a fare.